quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi don fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Io personalmente sono molto orgoglioso dell'amicizia della città di New York e dell'amicizia e del sostegno personale di un vero democratico, un vero riformista, una persona che non teme di cambiare le cose quando riconosce che le cose non vanno. Sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'American, tu vuoi fa l'American. Cambiare le cose purtroppo spesso porta opposizione, contrasto, ma come ha detto Bill, se non by the end of the day you do not have any enemy, probably you're not doing the right thing. Exactly right. Niente disturbato. Per chi non sapesse l'inglese, Marino, il signor Ignazio Marino, che era a New York al fianco del sindaco De Blasio, ha detto: se hai degli amici, dei nemici, vuol dire che stai facendo la cosa giusta. Sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'American, tu vuoi fa l'American. Capito? Se avete dei nemici vuol dire che siete sulla strada giusta. Niente, respinge tutto, tutto a posto. È tutto a posto per Ignazio Marino. È tutto a posto da New York. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano. Sienta a me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, oh, ti senti disturbato. E allora sì, alle 6:31 minuti, redivivo Ignazio Marino, prima di tornare in Italia, al fianco di Bill De Blasio, un vero democratico. Io ho notato un po' di polemica. Questo, come dire, lui sì che è un vero democratico, Bill De Blasio. Sienta a me non c'è sta niente fa, ok. Ma adesso saranno un po' difficoltà adesso Ignazio Marino quando torna a Roma, non è sempre America, non è sempre New York, non è sempre amici americani. Qui c'è l'assessore che dice Juve merda. No, Roma merda. L'assessore Esposito che rivendica il fatto di poter andare allo stadio, meglio lo faceva 30 anni fa, assessore di Roma, anche se è della provincia di Torino. Roma merda, ecco. Quindi figurati. Ecco, capito. L'assessore Esposito candidamente è venuto qui alla Zanzara a dire che lui urlava Roma merda, faceva le risse, pigliava pugni. Non ha mai tirato sassi alla polizia, per carità, o sassi ai tifosi, però pugni sì. Ma Repubblica oggi dice: non ho niente da chiedere scusa, è successo 30 anni fa. E poi soprattutto ho sempre difeso la sciarpa, non me l'ha mai portata via. Schiaffi ne ho presi, pugni sì, ma la sciarpa, quella non me l'hanno mai rubata. Capite? Ovviamente c'è una rivolta, cioè toccare il calcio a Roma. Cioè io dico, vai a Roma e non sai che a Roma esistono solo 5, 6, 7 radio che parlano solo di calcio. Vai su un taxi e parla con un tassista a Roma. Si parla solo di calcio, vivono solo per il calcio moltissime persone a Roma. E tu vai a dire che io dicevo Roma merda. E sei assessore a Roma, ma io dico. Ma non lo so, cioè. Un attimo, vabbè. Sono le 6:33 minuti, questo è 24 mattino, c'è Lorenzo Nespoli in redazione insieme al nostro Peter Bescapè in regia e oggi c'è un grande nuovo ingresso tra l'altro al Parlamento. Vabbè, c'è uno della capolista, mamma mia, salutiamo la capolista. Robecchi. Buongiorno a tutti, buongiorno Milan. L'interista Alessandro Robecchi. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Sai che c'è un nuovo ingresso al Parlamento oggi? No, chi? Questa sorpresa, dai. Ti faccio la sorpresa. Intanto grandissimo tifoso, anche lui, tifosissimo della Juve, si può dire ex politico, sì, vabbè, ma Maurizio Paniz, l'avvocato Maurizio Paniz, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tifosissimo sicuramente, ex politico. Ex politico, capito Robè? Che tifosissimo della Juve, eh? Ultima in classifica, ultima in classifica. Nessuno è un record. È un record. Ma no. È un record negativo, ma è un record. Ma vedremo alla fine dove saremo. Vabbè, chi lo sa, chi lo sa. Vabbè. Robecchi, eccolo qua. Eccolo qua. No, il nostro Paniz. Intanto lo apriamo il Parlamento? Sì, apriamo il nostro Parlamento. Avvocato Paniz, questo è il bar più pazzo del mondo, può dire quello che vuole, quindi se deve confessare di avere detto delle cose allo stadio, anche lei lo può dire, eh? Non è che... È un peccato che non posso confessare perché non l'ho commesso. C'è il massimo dell'insulto a cui si è lasciato andare, qual è? No. Perbacco. Perbacco! Non esiste, ho il massimo del rispetto per tutti gli avversari sportivi, così. Certo. E finita la partita stringo la mano comunque a tutti, vinto o perso. Te lo vedi Robecchi Paniz, ha detto perbacco quel passaggio, quella scivolata per dindirindina. E vabbè, abbiamo perso, ma non importa, qua la mano. Vabbè, sì. Vabbè, dai Paniz, si sa che allo stadio si dice un po' di tutto, però adesso obiettivamente non è che dobbiamo discutere, però Paniz, ecco, Esposito, se la poteva risparmiare, cioè poteva non confessare una roba così, oppure lui rivendica la sua sincerità, dice si dovranno abituare a Roma che hanno un assessore sincero. Ma io penso che sia già discutibile il fatto che una persona di Torino faccia l'assessore a Roma. Perché io credo che essere assessore in una città, lo dico naturalmente con il massimo della considerazione per l'impegno, la dedizione, la volontà dell'onorevole Esposito, ma essere assessore a Roma vorrebbe dire prima di tutto essere un cittadino di Roma, conoscere Roma nei dettagli e valutare quello che è il percorso di miglioramento di una città che in questo momento ha bisogno di grande, grande attenzione. Quindi io sono non favorevole a questi inserimenti di assessori da altre città, ma lo dico indipendentemente dall'impegno di quindi diciamo la cosa più strana è che faccia l'assessore da Moncalieri E poi obiettivamente ognuno può confessare quello che vuole, può rivendicare quello che vuole, sì, però dai, ma cantare così Roma è stato inopportuno a fronte proprio dell'attività che sta svolgendo. Hai capito Robecchi? Lievemente inopportuno è stato, lievemente inopportuno, però intanto non fa solo di Moncalieri, non fa solo l'assessore ai trasporti a Roma, ma fa anche il senatore, quindi devo dire è una persona eclettica che sa fare tante cose nello stesso tempo. Se fossi un cittadino romano, diciamo, essendo agnostico tra Roma e Lazio, mi preoccuperei di più del fatto che l'assessore ai trasporti non sa quanti taxi ci sono a Roma. Questa mi sembra una cosa. È vero. Visto che ci fanno tutta sta pippa di premiare il merito, ecco, magari che l'assessore ai trasporti sappia quanti sono i tassisti. Sì, certo, ha fatto più scalpore il tifo da stadio, ma forse è peggio sapere quanti sono i tassisti. Per Esposito si può dire quello che diceva Beppe Pio, no? Insomma, per essere un genio dovrebbe essere tutto diverso. Vabbè. Allora, ma dai, questa vicenda la derubrichiamo così. Tanto com'è in Italia, farà polemica due giorni, no? Paniz, tra due giorni non ci ricordiamo. Ma guardi, io credo che tutta la vicenda di Roma non faccia polemica due giorni, ma la faccia ormai da tanto tempo e la farà ancora per tanto tempo. Ma ben altra polemica. A proposito, ecco, questa cosa, Ignazio Marino che fa finta di nulla, cioè la sua tattica è quella. Robecchi, tu che ne pensi? È la sua tattica. Lui gli si può dire guarda che c'è adesso non lo dico, c'è un terremoto con 10 milioni di morti adesso ma è la tattica che si usa con gli orsi Bruni, no? Tu devi fingerti morto e loro e non ti calpestano. Esatto. Cioè, se ti però, corre un orso addosso, fingiti morto. Attenzione, mira, che non abbiamo la controprova. Cioè, se Marino invece che in America in vacanza fosse stato qui, magari peggiorava la sua situazione. No, cioè, è come no, magari diceva delle cose che era meglio che non diceva. Forse è meglio così. Forse è meglio, forse è meglio fingersi morto, Marino. Su qualsiasi, se bussano al Campidoglio e aprono, così fingi uno svenimento sulla sedia. Potrebbe essere una tattica anche questa. Panizza, ma penso che Roma peggio di così non possa rappresentarsi al mondo, no? Quindi credo che ormai la situazione sia talmente grave che soltanto un PD miope possa aver deciso che è meglio un commissariamento cosiddetto attraverso l'opera del prefetto Gabrielli piuttosto che non un colpo di spugna e una risistemazione totale di quella che è la giunta capitolina. Eccolo qui Robecchi, l'ex politico Panitz. No, ma è questione di ex politici, è questione di guardare in faccia la realtà. Quando ormai il mondo che guida una realtà importante come Roma è messo in discussione nel modo nel quale è messa in discussione tutta la città. Io credo che interventi devono essere radicali. D'altra parte, se c'è stato una sorta di commissariamento, vuol dire che è stato riconosciuto il fatto che non c'è qualcosa che non va. Però io dico una cosa: ieri ho ricevuto ancora una foto di persone che vivono a Roma con cassonetto vuoto e borse da spazzatura, sacchi da spazzatura buttati tutti fuori dal cassonetto. Questa a dire, ma una responsabilità anche dei romani, se una città è sporca, per esempio, non c'è dei romani come di qualsiasi cittadino di una città sporca, Alessandro, che dici? Cioè, tutta colpa di Marino? Ma no, tutta colpa di Marino ovviamente non si può dire, perché c'è una città così grande, complicata, non sarebbe colpa di un uomo solo, nemmeno se quell'uomo lì fosse Pol Pot, non so come dire, cioè non si può dare la colpa a una persona sola. Di sicuro il problema c'è, che il degrado è una cosa che chiama degrado, no? Cioè, più anche tu, bravo cittadino, quando vedi che le cose vanno un po' a rotoli, tendi a dire ma sì, ma chi se ne frega, ma vaffanculo, ma faccio a rotoli anch'io, no? Ecco, quindi sicuramente c'è una reazione anche un po' di questo tipo. Di sicuro è che la città, dopo Alemanno sindaco che avrebbe ammazzato un bue, e dopo questa ottima performance di Marino e del PD, perché attenzione, prima hanno tentato di cacciare, perché Marino può fare questo? Perché il PD è legato mani e piedi, prima ha tentato di cacciarlo, poi ha detto grande rilancio, entriamo noi, gli hanno messo dentro dei bei campioni come Esposito, per dirne uno, e adesso Marino è obbligato a tenerselo. Ma anche perché dicono se va via c'è il rischio che perdano la città. C'è il rischio di perdere la città. D'altronde tu l'hai nominato, peraltro, Esposito. In realtà hai dei pensieri che sono condivisi, perché senti Esposito, sempre ieri a Zanzara. Roma ha un'immagine in questo momento che sicuramente il tema della pulizia è un tema drammatico, sì. Fa schifo. È una città dove c'è bisogno di una bella cura per la pulizia. Roma fa schifo, Ecco, Panizza l'ha detto anche l'assessore Esposito. No, ma io non lo condivido questo. Non direi mai una cosa del genere. Io dico che Roma è una città straordinaria, è una città bellissima, è un'immagine magnifica dell'Italia nel mondo, Roma in quanto tale, per i monumenti che ha, per la qualità di tantissime opere, per tutto questo. Roma è Roma, è inutile discutere. Certo, bisogna poi che sia guidata per quello che riguarda i servizi, che occorre che funzionino gli autobus, che funzioni meglio la metropolitana, che le strade siano pulite, che il traffico sia regolato in maniera forse diversa da quella attuale. E qui non parla l'ex politico, parla il cittadino che va a Roma tutte le settimane, come vado io, perché ho uno studio anche a Roma, quindi con frequenza sono lì, controllo, parlo, vedo, e questo lo vedono tutti. Lo vedono tutti. Occorre una guida di tipo più efficace. rispetto a quella attuale. Io non, che c'è, Robecchio? La buona volontà, però ma non basta la buona volontà. Attenzione anche a non cadere nella trappoletta di dire le scritte sui muri cassonetti. Cioè, il degrado della città sta in altre cose, sta il fatto che una casa in città non te la puoi procurare né in affitto né a comprarla, a meno di non pagarla in 170 anni, che le periferie sono quello che sono, cioè è un problema anche sociale e di reddito e di diseguaglianza tra chi ci abita, non è un problema di cassonetti scritte sui muri, attenzione, sì. perché sennò allora andiamo a pulire due scritte sui muri e Roma rinasce. Facciamo come Gassman, scopa in mano, puliamo un angolino di Trastevere e via. Allora, sì, intanto... poi mi riducono le tasse perché io pago perché mi puliscano un angolino di Trastevere. Hai parlato delle tasse. A proposito, attenzione. Tra l'altro ci fanno notare giustamente che la capolista non è l'Inter ma il Chievo. Ci scrive un ascoltatore via SMS: la capolista è il Chievo. E tra l'altro, alla ripresa del campionato c'è il grande testa coda Chievo Juventus, o meglio Juventus Chievo. Bravissimo il Chievo. Ormai da anni rimane sulla cresta dell'onda, e questo è importantissimo per un piccolo angolo di mondo come Chievo. Eccolo lì, Paniz punta a diventare il Chievo di Verona. Punta a cambiare casacca e a tifare Chievo a questo punto, visto che la Juve è sindaco di Verona nel fondo della classifica. Ma Verona ha già un ottimo sindaco, lì non ci sono certi problemi. Eccolo lì. Allora, facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi entriamo, c'è la segreteria telefonica, Paniz sentirà la nostra segreteria telefonica di ascoltatori matti, e poi visto che Robecchi ha citato le tasse, oh, Renzi giura, spergiura, le tasse le aboliremo. Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo, traffico e distintivo, traffico e distintivo. Alino il lamparino, Forchelli disse, senza inglese non si va da nessuna parte. Io invece dico, senza ipocrisia non si va da nessuna parte. Ciao. Milan, ma io non ho capito, la Picirno come voleva essere chiamata? Onorevole, ma mi facci il piacere. Milan, non fare tanto lo schizzinoso di dire basta con Salvini. La prima cosa che hai fatto tornando dalle ferie, ti sei procurato una bella intervista per riapprenderti tutti i tuoi ascoltatori. Simpaticone di un Milan, proprio non riesce a essere sportivo. Ti sei accorto che per questi ultimi 4 anni la Juve ha dominato il campionato italiano di calcio? Quest'anno, per non ripetersi, parte addirittura in svantaggio, tanto poi recupera e sorpassa. Che classe! Potremmo fare un piccolo referendum di 24 ore a Roma. Tu vedrai che se fai un referendum decidono che Umarino potrebbe rimanere a fare un sindaco a New York. E a Roma avremo un prefetto Gabriella, capito? Mamma mia, adesso, ecco, io c'ho questa cosa, adesso Gabrielli per tutti è il salvatore, no? Il salvatore della patria. Ha sentito Paniz che segreteria telefonica di Matti? Ho sentito, mi è piaciuta però quella della Juve. Eccolo là, lo sapevo. È un buon segnale. Ma infatti avete dominato gli ultimi 4 anni, peccato che in Champions League. Pazienza. Quando si arriva alla finale penso che ti abbia onorato abbastanza. Sì, infatti, io firmerei anche quest'anno una bella finale vinta dal Real Madrid, tipo Real Madrid e Juve. No, ma lo dico sportivamente. No, adesso tutti i Gabrielli, ma io dico, ma non è che a questo punto, come gli italiani secondo me sono ingovernabili, anche Roma, una città come Roma è ingovernabile. Cioè, chi farà il sindaco poi? Chi si mette a fare il sindaco? Chi è quel pazzo che si mette a fare il sindaco? Gabrielli è il nuovo Cantone, tu ti ricordi? Sì, come no? Cioè, e perché però questo? C'ho le scarpe bucate, chiamate Cantone che mi risolve il problema. Esatto, ma perché ormai è introiettata questa cosa dell'uomo della provvidenza? Certo. Quando le cose vanno male si fa un nome solo, singolo, e dice lui ci salverà. Sì. E il trucco è ripeterlo per tutto, a Iosa, esatto. Cioè c'è Gabrielli adesso. Diciamo che la sintesi di questo pensiero è da Matteo Renzi, no? Cioè, ecco. Ha pensato a un certo punto che arrivava lui, ciambola. L'hai citato, l'hai citato, allora vi voglio buttare, gettare nell'allegria via con questa canzone molto allegra che introduce il tema. Ebbene sì, perché Renzi lo ha detto, ci sarà quest'anno il funerale della Tasi. Italiani, segnatevi la data del 16 dicembre, che è l'ultima scadenza, la seconda rata quest'anno dell'IMU e della Tasi, quello è il funerale della tassa sulla prima casa. Sarà l'ultima volta in cui gli italiani pagheranno la tassa sulla casa, punto. Il tono è lugubre. Caro avvocato Paniz, lei è pronto? Lei quante case ha? Più di una. Più di una. Vabbè, ma tutta sulla prima casa, sì. È pronto a celebrare il funerale della Tasi? No, sono prontissimo da anni, ma ormai non mi illudo. Non si illude, ecco. No, perché cioè, quando viene abolita... subito rovinato il funerale. No, perché quando viene abolita, dopo poco viene rimessa. Gli cambiano nome. Avvocato, ma non si fa polemica a un funerale, non si dicono cose scomode a un funerale, si mantiene un atteggiamento. Ma polemica, se figuri, lo dico con il sorriso ormai. Di queste cose, ma non si sorride a un funerale, no. si va lì, si assiste, si dicono parole di circostanza e appunto. il 16 dicembre. Robecchi, tu sei pronto? Sì, ma il funerale delle tasse è una frase da governatore del Wisconsin. Da governatore del Wisconsin. Ma chi è il governatore? Adesso dimmi, cercatevi subito chi è il governatore del Wisconsin, anche della Florida. Ti ricordi Reagan, Red My Lips, No More Tax, no? Quelle robe lì, sono quelle robe lì. Io ricordo solo una cosa, che per abolire l'IMU hanno aumentato di un punto l'IVA, sì, dicendo dobbiamo trovare i soldi per abolire l'IMU, cari italiani, venite al funerale, vi aumentiamo l'IVA, dopodiché hanno aumentato di un punto l'IVA e dopodiché hanno messo la Tasi che era peggio dell'IMU. Quindi, ma di che stiamo parlando? E poi, virgola, sì, quando tu fai un taglio lineare commetti un'ingiustizia, perché le tasse sono progressive e quindi abolendole per tutti dai una mano ai più ricchi. Allora, Renzi come Scott Kevin Walker. Oddio, che magari è una bravissima persona. Governatore repubblicano del Wisconsin. Intanto è repubblicano, vedi che Renzi, come Renzi è un berlusconiano, e tu hai beccato subito il governatore repubblicano. L'hai detto a caso. Mi ci ho beccato. Sì. Che tra l'altro, se lo vedi in foto, è un giovanotto, bello, brillante, sorridente, cioè può ricordare vagamente. È nato a Rignan on Arn. No. Però così. A proposito, ha parlato anche di Berlusconi. Renzi ieri a RTL, sentite qua su Berlusconi, perché c'è tutto il dibattito. Poi vi devo dire, c'è un'intervista oggi imperdibile a Massimo D'Alema, una paginata sul Corriere. Indovinate chi attacca in lungo e in largo, dalla prima all'ultima parola? La destra. Basta con queste politiche. Il Berlusconi in prima maniera parlava delle questioni degli italiani, ora anche lui non parla altro che di Italicum politichese e vabbè, non lo so. Forse l'età. Paniz, lei che conosce benissimo Berlusconi, cosa vede di Berlusconi in Renzi? Se vede capacità qualcosa. Di comunicare, la capacità di comunicare. Il problema è che Berlusconi faceva seguire i fatti e qui invece di fatti ne vediamo abbastanza pochi. Robecchi. Vabbè, quale fatti ha fatto Berlusconi? Ce ne dica tre cose per cui si può dire eccoli qui i fatti di Berlusconi. Basta che guardi la storia, guardi gli indici di produttività del paese negli anni dal 2001 in avanti, se guardi se sono indici di produttività uguali a quelli di oggi, guardi il tasso di disoccupazione che c'era 8, 10, 12 anni fa e guardi il tasso di disoccupazione che c'è adesso, guardi il tasso di disoccupazione giovanile attuale e lo metta in relazione a quello che c'era 5, 7, 8 anni fa. Congiunture che... pare poco? No, certo, ma non sono congiunture che vanno al di là delle singole politiche. Congiunture? Congiunture sono le risposte che si vogliono dare quando si vuole giustificare l'insuccesso della propria attività, della propria politica. Ma lei è una cosa importante. Lei dovrebbe fare come D'Alema. Lei dovrebbe fare come D'Alema. Oggi D'Alema fa un'intervista al Corriere della Sera, nella quale attacca Renzi a destra e a sinistra. Poi gli dice: ma allora il PD? No, io parlo di politica internazionale. E ha appena fatto di 7 domande e 7 risposte nelle quali dice questo. tra le altre cose, Renzi ha ereditato l'Expo da Prodi senza il buon gusto di dire almeno un grazie. Ha trattato il predecessore Letta, che ha messo in sicurezza il paese in un modo inutilmente sprezzante. Ha svilito la nostra storia comune. Parlare di berlusconismo e antiberlusconismo e poi è arrivato lui è una sciocchezza pubblicitaria. Mi hanno linciato appena ho detto che il PD ha perso nei sondaggi dei voti con un metodo staliniano con ordini dall'alto. Ecco, lei dovrebbe fare così, Paniz, iniziare a sparlare di Berlusconi, a dire Io sono stato peggio cose. Nei confronti di Berlusconi su alcuna cosa. Non ho difficoltà a ripetere quello che ho già detto molte volte, però il fatto di essere critico per certi profili non significa riconoscere i meriti di chi ha governato, secondo me, in maniera stabile. Parliamo tutti di immigrazione come del grande problema di queste ultime settimane, di ultimi mesi, per non dire poco di più. Guardi che Berlusconi aveva stoppato completamente sia gli arrivi dalla Libia che gli arrivi dall'Albania. La storia parla molto chiaro. Sì, anche lì era una situazione Il problema. No, guardi che quando si comincia a incentivare un certo percorso, il tam-tam poi arriva da qualsiasi parte e si mettono in moto tutti quanti. È un problema anche di capacità, di saper stoppare, come Berlusconi aveva fatto in maniera, secondo me, eccellente, perché il rispetto nei confronti di chi soffre, di chi ha diritto all'assistenza è una cosa, ma la disponibilità ad accogliere il mondo intero che si trova in condizioni diverse rispetto alle nostre è una capacità che l'Italia, sto per dire non solo l'Italia, anche il resto, anche l'Europa, paesi, sì, no, certo, non può, no, io devo fermarmi qui, però 10 secondi. Robecchi, tu hai capito qual è il problema di D'Alema? Il problema è psicologico, è più politico? Ma sicuramente c'è un problema di leadership, diciamo così, sconfitta politicamente, però se tu vai a vedere le cose che mi hai letto di quell'intervista, insomma, non è che, cioè, Letta non è stato trattato benissimo, sì, ma la polemica su berlusconismo e antiberlusconismo è sicuramente una trovata, sì, ma che lo dica D'Alema, voglio dire, va bene, cioè, ma che c'entra, ma se D'Alema dice piove e piove, cioè, ogni tanto ci avrà ragione anche D'Alema, no? Ma questo sì, però voglio dire, il suo attacco, cioè, a Renzi è come dire, sembra quasi, come dire, si sveglia D'Alema e attacca Renzi, cioè, mi risulta che D'Alema non si sveglia, che quelle cose lì le dice da tempo. D'altronde, come fu trattato Enrico Letta, non è una cosa che si inventa da leva. Stai sereno. Comunque, io mi devo fermare qui. Ringrazio Alessandro Robecchi, ringrazio l'avvocato Maurizio Paniz. Quando vorrà e se vorrà, il Parlamento è sempre aperto e ben lieto di riaccoglierlo, anche se è ultimo in classifica, anzi, soprattutto per, insomma, lenire le ferite. Alla prossima. Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Allora, 7:18 minuti, siete qui, come dico io, amici miei debosciati. Che state facendo? Siete ancora rallentati nelle vostre colazioni mentre qui abbiamo letto i giornali per voi e ora ve li racconterò. E vi ricordo anche che andremo in onda come di consueto tutto settembre fino alle 9:30. Parleremo della vicenda immigrati, avremo tanti ospiti legati anche a una domanda, una provocazione che vogliamo fare, ma non è il caso, visto che molti fuggono dalla guerra in Siria e tra l'altro, lo dico subito, ci sono delle prime pagine dei giornali oggi, se li comprate, che vi scioccheranno, vi colpiranno con un pugno allo stomaco, perché molti giornali hanno deciso di pubblicare in prima pagina la foto di quel bambino che presumibilmente ha 3 anni, morto su una spiaggia, fuggiva dalla Siria. La provocazione è questa, ma non è il caso di intervenire in Siria, militarmente anche, per cercare di fermare uno dei flussi più imponenti di profughi? Certo, non arrivano in Italia, vanno soprattutto in Europa i siriani, d'altronde la geografia è quella lì, non avrebbe senso dalla Siria fuggire a piedi, andare in Africa e fare la traversata. Molti vanno in Europa, non avrebbe senso, proprio per bloccare anche quella che poi diventa una problematica europea, questo flusso di profughi, di gente che fugge dalla guerra, intervenire militarmente. Ne parleremo, parleremo col generale Camporini, parleremo con un gesuita islamologo, esperto di Siria, padre Samir. Parleremo col presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccer, sarà ai nostri microfoni, perché che sta succedendo tra Italia e Austria? Si bloccano le frontiere? Insomma, tanti temi dalle 8:15. State con noi, intanto andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 3 settembre i titoli, intanto Il Sole 24 Ore apre sul caso Cina e rischio crescita, BCE pronta a nuove misure. Questo è il titolo. Il titolo di prima pagina, mentre per gli altri giornali, certo, l'immigrazione sempre, alleanza per l'asilo europeo, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, migranti, i marchi della vergogna, Unione Europea, ecco il piano. Voglio subito saltare su quei giornali che hanno deciso di pubblicare, dopo ne parleremo, questa foto che ha scioccato e sconvolge il mondo. È la foto di un bambino. Alcuni giornali, Il Messaggero per esempio, ha deciso di non pubblicarla in prima pagina. Il Giorno invece la mette proprio, questa foto di questo bambino, faccia a terra, è morto su una spiaggia in Turchia, fuggiva dalla Siria. Ora basta, questo è il titolo del Giorno. Oppure La Stampa, la spiaggia su cui muore l'Europa. C'è anche un editoriale del direttore Mario Calabresi che dopo leggerò. E la foto di questo bambino morto, così come Il Manifesto la mette a tutta pagina, in prima pagina, niente asilo. E c'è la foto sempre di questo bambino che non ha nome e non avrà una terra, chissà la sua famiglia che fine ha fatto. Sono queste le prime pagine dedicate all'immigrazione. Anche Il Giornale, tasse giù ma solo agli immigrati, euro follia, l'Unione Europea accoglie un ricorso della CGIL, troppo caro il permesso di soggiorno per gli stranieri. Queste alcune delle aperture, voglio subito leggere alcuni articoli, quelli sull'immigrazione li vedremo più tardi, ma voglio invece tornare sul tema delle pensioni. Ieri ho letto un'intervista del ministro Poletti al Corriere della Sera. Secondo il ministro Poletti, la famosa flessibilità sulle pensioni non deve essere a costo zero. Certo, chi esce prima deve accettare un assegno più basso, ma ci deve essere anche una sorta di compensazione parziale da parte dello Stato. È una novità, scrive il Corriere, che oggi torna con un dossier, con una pagina dedicata proprio alle pensioni. Un assegno ridotto in modo progressivo dal 2% in su per chi lascia prima. Questo tra le ipotesi, ovviamente non c'è nulla di definitivo. Chi uscirà prima dovrà accettare un assegno più basso. Certo, però c'è il cambio di passo, la compensazione parziale da parte dello Stato. Un cambio di passo non da poco, scrive Lorenzo Salvia a pagina 8 del Corriere. Fino a 2 giorni fa il governo aveva sempre detto che la flessibilità si dovesse autofinanziare senza toccare il portafoglio dello Stato. Non tutti, ovviamente, nella maggioranza la pensano come Poletti, ma quella del ministro non è una mossa isolata. Ragionamento in corso, alcune idee sono già sul tavolo, la vera novità sta nella prima ipotesi. Finora chi parlava di flessibilità si riferiva sempre alla vecchia proposta di Cesare Damiano e Pierpaolo Baretta del PD. Dice quel testo che la pensione deve subire un taglio del 2% per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione normale, che oggi è fissata a 66 anni. L'idea è che il taglio non sia più fisso, sempre il 2% per ogni anno di anticipo, ma cresca progressivamente con il numero degli anni di anticipo. Un esempio: per chi esce un anno prima il taglio sarebbe del 2%, ma per chi esce 2 anni prima sarebbe del 5%, per chi anticipa di 3 anni si potrebbe tagliare la pensione dell'8% e così via. I numeri cambieranno, ma il principio del taglio progressivo sembra fino a ora un punto fermo. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di ridurre i costi e quindi il volume delle coperture che il governo dovrà trovare nella legge di stabilità. Questa è una delle proposte, ovviamente poi ci sono altri dettagli, sono tutti elementi che si vedranno in legge di stabilità e quindi non sono cose già decise, ma allo studio. Ma questa pagina del Corriere della Sera è interessante per capire cosa il governo ha in mente. Invece, che ti ha combinato l'assessore alla mobilità di Roma? Cari amici di Roma, siete Siete all'ascolto? Siete tifosi della Roma, della Lazio? Siete in quella parte del popolo di Roma che sicuramente vive il calcio con una passione per alcuni altri italiani considerata un po' smisurata, no? Tante radio che parlano solo di calcio, si parla di calcio come di un affare di Stato a volte a Roma. Magari bisognerebbe, anch'io che sono grande tifoso del Milan e qua mi lancio in ironia eccetera, però prendo il calcio così come una passione, come un gioco. E invece l'assessore Esposito, assessore alla mobilità e trasporti di Roma, l'ha combinata grossa quando ieri alla Zanzara ha detto: sì, da tifoso della Juve 30 anni fa per la verità gridavo Roma merda allo stadio e ho fatto anche risse coi tifosi. E oggi su Repubblica, dopo aver detto tutto questo alla Zanzara, Giuseppe Cruciani rincara la dose, non arretra di un passo, intervistato da Giovanna Vitale: non rinnego il mio passato ultra, ma perché dovrei chiedere scusa? È successo 30 anni fa. Ma ho detto sì, Roma merda, come ho detto varie volte queste cose contro la Lazio o contro il Milan. Contro il Milan. Vabbè, insomma, vabbè, sì, contro, anche contro il Milan. Ah, ah, assessore, comincia a starmi poco simpatico. Vabbè, comunque, di botte sì, ne ho preso un sacco, ero un ultra, però ho sempre difeso la sciarpa, non sono mai riusciti a portarmela via. Ma, scusi, ma lei non si rende conto? Anche Veltroni era juventino, ma da sindaco non si è mai sognato di ostentare così la sua fede, addirittura una volta ha indossato i colori della Roma. Problema suo, io non lo farò mai. Mai indosserò una sciarpa diversa da quella juventina. E vabbè, poi racconta della partita di domenica, non l'ho vista, era un dibattito pubblico con Alfio Marchini, che però mi prendeva per il culo perché aveva qualcuno che lo aggiornava e mi ha sfottuto dicendo: andate a casa con due pere, visto che la Juve ha perso. A tutti coloro che dicono di chiedere scusa dico no, ma neanche a D'Alema, che la esorta a chiedere scusa. D'Alema chi? Ecco, così finisce l'intervista all'assessore Esposito. Segnatevi il nome Massimo D'Alema, perché dopo, più avanti nella rassegna stampa, leggerò una sua intervista oggi di un'intera pagina al Corriere della Sera. Vi faccio un quiz. Secondo voi, un quiz poi lo sveleremo. Secondo voi Massimo D'Alema, in questa intervista di una pagina al Corriere, chi attacca da, praticamente dalla prima all'ultima domanda? Chi attaccherà mai? Ecco. Mandatemi la risposta al 349-238-6666. Chi attacca oggi Massimo D'Alema sul Corriere della Sera? Poi lo sveleremo. Non vincete nulla tranquillamente, anche perché la domanda è abbastanza scontata se seguite un po' la politica. Comunque, una notizia buona per il PD è questa. Ha fatto urlare, nel senso metaforico, scrivere un post su Facebook di giubilo il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Quest'anno il 2 per 1000 ai partiti è andato abbastanza bene per il PD. Sono arrivati 500.000 euro di donazioni dagli italiani. E beh, se è vero, come sostiene Leonardo Becchetti, che i cittadini votano col portafogli, per il PD quello di ieri è stato un plebiscito. Così inizia l'articolo di Francesco Bei su Repubblica, pagina 14. Dopo i dati sconfortanti del 2014, cioè appena 200.000 euro incassati, le dichiarazioni dei redditi di quest'anno fanno scoppiare i forzieri del PD. 549.196 persone hanno deciso di destinare il 2 per 1000 al partito con un ricavo di 5.500.000 euro, una cifra che equivale al 60% dell'intero tesoretto che la legge riserva ai partiti, che tesoretto che per quest'anno è di 9,6 milioni. E Renzi, che esulta su Facebook, è quella la risposta più giusta all'antipolitica. E quindi molti cittadini hanno premiato il PD. E invece sono un po' meno soldi quelli incassati da questo signore. Ma anche se sono meno soldi, portano quest'articolo a vincere il premio di oggi per l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. L'articolo che ci fa tenere le mani sul volante. Se siete alla guida, mi raccomando, Simone Di Meo, sul Giornale a pagina 16, incensurato e con la pensione, la morte beffa del boss Tony. Per 10 anni Antonio Nirta, considerato il capo dell''ndrangheta e dell''ndrina di San Luca, ha incassato i soldi dall'INPS, cioè dallo Stato. Solo quando è morto lo Stato si è accorto di chi fosse in realtà. Nei 20 anni precedenti ombre e sospetti non avevano impedito ad Antonio Nirta, che per gli inquirenti è il grande capo dell''ndrangheta di San Luca, di ricevere ogni mese il bonifico della pensione. Certo, perché aveva l'assegno prima della pensione come capo squadra forestale per anni. Nonostante la polizia, nonostante gli inquirenti, nonostante i magistrati lo considerassero il capo dell''ndrangheta e dell''ndrina di San Luca. Incensurato e con la pensione, la morte beffa del boss Tony. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, la chitarra elettrica dell'informazione. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's funny. Eh beh, il grande Jimi Hendrix. Allora, siete un po' pigri però, perché vi ho invitato a mandarmi le siglette che introduco la rassegna stampa nei vari dialetti delle 20 regioni italiane. Per la verità vi dice Lorenzo Espoli che alcuni l'hanno mandata, però se la mandate mentre siete in macchina, non si sente bene, insomma, dedicate questi 12 secondi e noi vi saremo grati per sempre, e mandate tutta la segreteria telefonica 02 4652 4492. Grazie. Allora, parliamo di immigrazione. Aspetta, devo rispondere a un'ascoltatrice che mi chiede da che film è tratto Raffaella dalla provincia di Brescia, da che film è tratto il Sono cose che capitano. Ogni tanto ce lo chiedo perché è molto carino, e il film è un film di qualche anno fa, un bel po' di anni fa. Questo pazzo mondo, pazzo 4 volte, ricordate. Eccoci qua. Allora, parliamo di immigrazione. Lo dobbiamo fare con questa decisione di alcuni giornali italiani, per la verità di molti giornali nel mondo, di pubblicare o meno una foto. C'è questa foto che, come giustamente secondo me scrive Mario Calabrese, oggi direttore della Stampa, è già entrata nella storia come la foto della bambina vietnamita con la pelle bruciata dal napalm, o il bambino con le braccia alzate nel ghetto di Varsavia, foto che fanno la storia. Questa foto è una foto tragica, è la foto di un bambino, sulla stampa c'è scritto che il nome di questo bambino ricostruito è Aylan, 3 anni, morto annegato ieri sulle coste della Turchia mentre cercava di fuggire, presumibilmente, sicuramente con qualche familiare, via mare dalla Siria. È morto annegato, da Bodrum cercava di raggiungere Kos. È morto partendo ovviamente dalle coste di Bodrum. Pubblicare o no questa foto? Beh, su tutti i giornali italiani oggi la trovate, in alcuni casi nella versione, lo so che è brutale dirlo, un po' più sfumata, cioè c'è questo poliziotto turco che prende in mano il corpicino di questo bambino. In altri giornali invece, Il Manifesto per esempio in prima pagina, Il Giorno in prima pagina, La Stampa in prima pagina, hanno deciso di pubblicare proprio il primo piano del corpicino di questo bambino sulla battigia. Morto. E Mario Calabresi, direttore della Stampa, firma l'editoriale dal titolo La spiaggia su cui muore l'Europa, a fianco di questa foto, in cui scrive questo: si può pubblicare la foto di un bambino morto sulla prima pagina di un giornale, di un bambino che sembra dormire come uno dei nostri figli o nipoti? Fino a ieri sera ho sempre pensato di no. Questo giornale ha fatto battaglie perché nella cronaca ci fosse un limite chiaro e invalicabile dettato dal rispetto degli esseri umani. La mia risposta anche ieri è stata la stessa: non la possiamo pubblicare. Ma per la prima volta non mi sono sentito sollevato, ho sentito invece che nascondervi questa immagine significava girare la testa dall'altra parte, far finta di niente, che qualunque altra scelta era come prenderci in giro, serviva solo a garantirci un altro giorno di tranquilla inconsapevolezza. Così ho cambiato idea. Il rispetto per questo bambino, che scappava coi suoi fratelli, suoi genitori, da una guerra che si svolge alle porte di casa nostra, pretende che tutti sappiano, pretende che ognuno di noi si fermi un momento e sia cosciente di cosa sta accadendo sulle spiagge del mare in cui siamo andati in vacanza. Poi potrete riprendere la vostra vita, magari indignati da questa scelta, ma consapevoli. Li ho incontrati questi bambini siriani, figli di una borghesia che abbandona tutto, case, negozi, terreni, per salvare l'unica cosa che conta. Li ho visti per mano ai loro genitori, che come tutti i papà e le mamme del mondo hanno la preoccupazione di difenderli dalla paura. Li comprano un pupazzo, un cappellino o un pallone, prima di salire sul gommone, dopo avergli promesso che non ci saranno più incubi e esplosioni nelle loro notti. Non si può più balbettare, fare le acrobazie tra le nostre paure e i nostri slanci. Questa foto farà la storia, come è accaduto a una bambina vietnamita con la pelle bruciata dal napalm o a un bambino con le braccia alzate nel ghetto di Varsavia. È l'ultima occasione per vedere se i governanti europei saranno all'altezza della storia. È l'occasione per ognuno di noi di fare i conti con il senso ultimo dell'esistenza. Questo è il commento, come dice lo stesso direttore della Stampa. Indignati o no da questa scelta, certo qualcuno la troverà sbagliata, altri no, ma almeno consapevoli. E detto questo, la cronaca non dico che passi in secondo piano, però c'è anche la cronaca. Vi segnalo due cose importanti. La prima, pagina 2 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini racconta di come ci sia un piano Juncker, cioè la Commissione Europea sta pensando a una cosa. Che cosa? Questa: i paesi che rifiuteranno di ospitare i profughi, paesi dell'Unione Europea, dovranno versare un contributo fortemente oneroso nelle casse dell'Unione Europea. Cioè, suona quasi come una multa. Una somma che possa ripagare gli altri paesi per l'impegno sul fronte dell'immigrazione. È una svolta clamorosa, quella contenuta nella bozza di accordo che la Commissione guidata da Juncker sottoporrà il 14 settembre ai ministri dell'Interno e della Giustizia, perché per la prima volta si sanzionano gli stati membri non collaborativi. Beh, se passerà, sarà una cosa certamente clamorosa. E poi la cronaca. Vi segnalo anche questo. Che succede ad in un paesino che si chiama Ormea, nella Val Tanaro, terra di confine tra le province di Cuneo e Imperia, quindi tra Piemonte e Liguria? Succede, come la Stampa scrive a pagina 5, che c'è una colletta tra i cittadini per comprare l'hotel che dovrebbe ospitare dei profughi. Sapete che il Ministero dell'Interno distribuisce i profughi anche in hotel, in alcuni casi. A Ormea non li vogliono. È un paese di 1650 abitanti, racconta Paola Scola sulla Stampa a pagina 5. Un tempo la popolazione era numerosa anche grazie alla villeggiatura, poi la crisi, e gli abitanti di Ormea sono tenaci come i vitigni che resistono sulle fasce per produrre il vino rosso importato lì dai saraceni attorno all'anno 1000. E allora si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di fare una colletta per raccogliere i 50.000 euro che servono per gestire l'hotel, di modo che non verranno i profughi. Servono 50.000 euro. C'è anche un'intervista a Carlin Petrini, colui che ha fondato Slow Food, che dice: non è razzismo, le comunità che reagiscono vanno ascoltate. Intervistato da Michele Brambilla, dice: un po' di ragione ce l'hanno anche loro, queste persone. Le assicuro che non è nella testa della nostra gente respingere qualcuno che chiede aiuto. Non siamo trinariciuti. A Murazzano, qui nel Cuneese, ci sono immigrati perfettamente integrati. Penso semplicemente che queste persone abbiano voluto difendere la propria comunità. Un albergo in quella zona vuol dire turismo, risorse, lavoro, soprattutto ora. I paesi del Cuneese sono stati meta di villeggiatura per tutti gli anni 60 e 70, poi l'abbandono. Ora questo rischierebbe di far scappare i turisti, diciamo la verità. Quindi anche dalla storia di un piccolo paese si può raccontare quello che sta succedendo dal punto di vista dell'immigrazione. C'è anche quest'altra notizia sull'immigrazione, un ricorso da parte della CGIL alla Corte di Giustizia Europea che alla fine dà torto al governo italiano, e cioè da 80 a 200 euro, che è la tassa sulla domanda di soggiorno per gli immigrati, sono troppi, troppi per i giudici europei. L'ultima pretesa europea, scrive il giornale, tassate meno gli immigrati. La Corte di Lussemburgo bacchetta il governo per la cifra chiesta agli stranieri per la domanda di soggiorno, va appunto dagli 80 ai 200 euro. Per i giudici, accogliendo questo ricorso della CGIL, è una vessazione inaccettabile. Noi ne parleremo alle 8.15 a partire da quella foto, a partire da quel conflitto in Siria, anche raccontando, non è il caso che in Siria si entri militarmente per porre fine a una guerra che va avanti da anni per di più nell'indifferenza e che poi comporta anche appunto numerosi profughi che vagano per l'Europa. Intanto però voglio salutare Mauro Meazza, buongiorno Mauro e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno, quasi quasi preferivo quando mi lanciavi con botte di codice penale, diciamo la verità. Lo so, questa foto davvero, se comprate qualsiasi giornale di questo bambino morto, è una foto che non può lasciare indifferenti, su questa ragione il direttore della Stampa. Sì, sì, di questa vicenda e anche di questa foto che viene riportata anche su Sole 24 Ore di oggi, ci occupiamo anche sulle nostre pagine. Tra l'altro citavi prima la vicenda della bocciatura della Corte di Giustizia europea i permessi di soggiorno, sì. Come spieghiamo sul Sole 24 Ore, e quello che è stato bocciato è la sproporzione tra quello che richiediamo come Stato, ad esempio per il rilascio della carta d'identità normalmente, e quello che invece viene richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno, essendoci una differenza molto forte di importi fino a 8 volte. Questo è stato il punto che ha convinto i giudici della Corte di Giustizia europea. Ma lo leggi sul Sole 24 Ore, mi pare ne se ne occupi l'ottimo Marco Ludovico. Come secondo me è più Beda Romano. Però anche Marco Ludovico ha fatto un commento. No. È vero. Volevo prenderti in castagna. Insomma, no. Beda Romano ha scritto la cronaca e Ludovico ha scritto un commento. L'importante è che tu non mi faccia cantare cori da stadio perché non è la giornata. Per tanti motivi. Per carità. E poi perché insomma non è che li gradisca tanto, preferisco uno sfottò del nostro tipo. Ma volevo dirti, oggi è una giornata importante per la BCE, Banca Centrale Europea, perché c'è questa prima riunione post vacanze, vediamo quali possono essere le decisioni, specialmente in materia valutaria. E quindi siamo in attesa di capire. È stata invece una giornata importante per 38.000 insegnanti, come trovi sul Sole 24 Ore di oggi, già in prima pagina, perché sono state decise le prime assunzioni, sai, quella buona scuola. Sì, certo. E ci sono 7.000 si dovranno spostare. Adesso poi si scatenerà ovviamente l'interpretazione, sono tanti, sono pochi questi 7.000 che si dovranno spostare per un contratto stabile. No, ma infatti ne abbiamo parlato ieri, c'è da dire che io una cosa contesto, per esempio il Fatto Quotidiano lo metto oggi in prima pagina, questa parola deportazione io veramente la trovo inaccettabile, no? Quando si dice il peso delle parole, oggi il Fatto titola così, gli insegnanti deportati, ecco. Erano un'altra cosa i deportati. Tra l'altro sul Sole di oggi commentiamo anche un'altra vicenda, mi fai venire in mente con le deportazioni, quella dei numeri scritti sui migranti, è successo ieri, come trovi poi su tutti i giornali, è una cosa che a noi, insomma, i numeri scritti sul braccio a noi europei, sai, fa sempre rabbrividire. Volevo tornare, posso rispondere al quesito su D'Alema o io non posso giocare in quanto, non so, in quanto interista? Poi fa. No, pensavo parlasse male dell'allenatore della Roma, volevo lanciare hai perso. Accidenti, ma cosa si vinceva? Niente, però come ci scrive Paolo da Milano è già tanto che non devo pagare, vince nulla, ma almeno non devo pagare. Ero abbastanza convinto di questo, adesso vado a leggere il Corriere della Sera per scoprirlo. Va bene. Dopo naturalmente aver letto il Sole 24 Ore, perché ti voglio dire che ci sono delle decisioni importanti. Ad esempio la Cassazione ha deciso che è legittimo licenziare chi crea tensione in azienda. Sì. Adesso non so se il caso sia data a chi canterella alla radio delle cose, allora crea tensione in un'azienda, in questo caso però il comune. Vabbè. Oppure, e questo è un po' più serio come spunto, non che l'altro sia risibile, però questo è ancora più serio, sulla tenuità del fatto. Tu ti ricordi la tenuità? Sì, no. Certo. Certo, no. Attenuità del fatto. L'attenuità del fatto, cioè una sorta di depenalizzazione, ecco, però non si applica, chiarito la Cassazione, se hai un certificato penale già ingombrante. Quindi è un punto abbastanza importante, cioè se anche se commetti una cosa poco grave, ma già non hai una condotta specchiata, l'attenuità non ci sarà. E così ti ho fatto anche la rima. In questi giorni sono abbastanza lirico, sì, hai notato questo? Esatto, esatto. Va bene, in ultimo, prima di lasciarci, ti volevo segnalare che le telecamere nei negozi, per riprendere i clienti, vanno segnalate adeguatamente. Ottimo. Lo trovi oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine Norme e Tributi, come sempre, molte altre informazioni importanti, tra l'altro anche sui capitali detenuti illecitamente in Svizzera, caro Milan, e non voglio dire altro, o anche in Costa Rica, se vuoi, e a questo punto è tutto ciò premesso. Traffico! Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. Allora, è il momento di svelare il quiz. Avevo detto all'inizio di rassegna stampa, c'è un'intervista a Massimo D'Alema sul Corriere della Sera, un'intervista fatta da Aldo Cazzullo, e vi chiedevo, indovinate un po' chi attaccherà D'Alema per tutta una pagina del Corriere della Sera, e tutti avete risposto quello che era abbastanza ovvio: Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Effettivamente la battuta di Paolo da Milano è straordinaria, come avevo detto non si vince nulla, ma Paolo mi scrive, è già tanto che non debba pagare, quindi va bene così. Renzi danneggia il partito rinnegando la storia comune. Così Massimo D'Alema, intervistato dal Corriere della Sera. Raffigurare la storia italiana come se berlusconismo e anti-berlusconismo si fossero annullati in una litigiosità inutile senza produrre nulla è una raffigurazione falsa, dice D'Alema. Certo, altre cose non ci sono riuscite, ma abbiamo portato l'Italia nell'euro, abbiamo fatto la riforma delle pensioni, del mercato del lavoro, privatizzazioni e liberalizzazioni, la politica estera nei Balcani e in Libano. Pensare a 20 anni di rissa in cui a un certo punto appare Renzi è una sciocchezza pubblicitaria. E poi qui inizia una serie di attacchi a Renzi di questo tenore. Sentite D'Alema. Renzi ha ereditato l'Expo dal governo Prodi senza avere il buon gusto di dire almeno grazie. Mi ha colpito l'atteggiamento sgradevole nei confronti del suo predecessore Enrico Letta, che ha messo in sicurezza il paese, e Renzi ne parla in modo inutilmente sprezzante. Soprattutto io invece non ho mai svilito la storia comune nostra, come invece sta facendo Renzi. Oggi si rischiano lacerazioni ben più drammatiche nel PD. Sono stato coperto di insulti per avere fornito in un dibattito qualche dato oggettivo. Nei sondaggi siamo precipitati dal 41 al 32%, e allora per ordine dall'alto è iniziato il linciaggio di tipo staliniano. Il PD sta abbandonando molti valori della sinistra, ma non i metodi dello stalinismo. Oggi i trotskisti da fucilare, se il piano quinquennale falliva, vengono chiamati gufi. Questo D'Alema, a un certo punto però è straordinario quando Cazzullo gli dice il PD è a rischio scissione? Ah, non rispondo, io mi occupo di politica internazionale. Ma come di politica internazionale? Ha fatto fino a quel momento mezza pagina di attacchi frontali, legittimi dal suo punto di vista, a Renzi, e poi alla domanda, ma allora c'è la scissione? Non lo so, io mi occupo di politica internazionale. Questo Massimo D'Alema parla anche di altre cose, parla anche per esempio alla domanda che effetto le fa vedere quasi tutti i suoi collaboratori di un tempo schierati con Renzi, come Rondolino, Velardi, che spesso è nostro ospite. Velardi si schierò già con Lettieri e la Polverini, è la risposta di D'Alema. E la Torre, Orfini, mi fa un certo effetto di tristezza, colpisce la solerzia con cui alcuni si impegnano nelle polemiche contro di me. Anche questo appartiene al metodo staliniano, fare attaccare i reprobi dai vecchi amici, dai familiari. Questo Massimo D'Alema sul Corriere della Sera. Vabbè, direi che è l'intervista del giorno, anche se non è una novità, gli attacchi, lacrimonia, insomma la difficoltà del rapporto politico se non personale tra D'Alema e Renzi, che ricordate si è imposto anche alla scena politica con la famosa frase del rottamiamo i D'Alema. Allora, sul tema del fisco c'è Renzi che ieri ha risposto all'Unione Europea, c'è tutto il dibattito, l'Unione Europea che da fonti anonime dice non si possono togliere le tasse sulla casa, questo dibattito oggi continua sui giornali, vi segnalo un articolo del Giorno di Emanuele Bonini a pagina 3, si parla di vera e propria tensione nei corridoi di Bruxelles, c'è anche questa frase: così Renzi farà la fine di Tsipras, addirittura molto molto forte. C'è Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento Europeo, che dice ci sono regole che vanno rispettate, non è che l'Italia può impegnarsi a fare delle cose e poi non farle più. Insomma, in vista della legge di stabilità la tensione rimane, secondo i giornali, tra Bruxelles e il governo italiano sulla decisione di tagliare le tasse sulla casa annunciata da Renzi. In chiusura, che dobbiamo dire? Beh, siamo in chiusura? Sì, c'è la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi faccio una scelta forte ed è questa. Una pagina intera sul Corriere della Sera, una pagina di Marzio Breda, che è il Quirinalista, colui che spiega tutto quello che succede al Quirinale sui primi sei mesi di Mattarella, col titolo I silenzi eloquenti di un presidente. Una pagina intera per raccontare il ruolo silenzioso di Mattarella. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Ciao Milan, che te botti lo piglia a fuoco. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, fai tutto tu. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 18 minuti, devo ammetterlo però, ve lo dico, da stamattina ho un po' un nodo nello stomaco, da quando alle 5 e mezza del mattino sono arrivato, come tutte le mattine, ho preso in mano i giornali qui a Radio 24 e ho visto la foto che molti di questi quotidiani hanno deciso di pubblicare, taluni in prima pagina, in grande evidenza. Se comprerete un giornale la vedrete anche voi. È la foto di Aylan, un bambino di 3 anni che fuggiva dalla Siria in guerra, fuggiva con la famiglia, e questa foto lo ritrae solo sulla battigia della spiaggia di Bodrum in Turchia, con la faccia affondata nella sabbia, morto. È un'immagine che è diventata virale nella rete e poi sui giornali, una foto che per esempio oggi il direttore della Stampa Mario Calabresi decide di pubblicare in prima pagina scrivendo: per la prima volta nella mia vita di giornalista cambio idea e decido che vada pubblicata una foto di un bambino morto di 3 anni. E invita i lettori dicendo: voi guardatela, magari indignatevi anche per questa scelta, però non potrete dire ora che non siete consapevoli. Già, ma consapevoli di cosa? Beh, consapevoli del fatto che in Siria c'è una guerra da anni, anche se non ne parlano in molti, non ne parlano i giornali. E quella guerra è una delle cause del flusso di profughi, cioè di persone che fuggono dalla Siria e che vengono in Europa, vogliono raggiungere l'Europa. Magari sono molte di quelle persone che si ritrovano, anzi sicuramente sono molte di quelle persone che si ritrovano in questi giorni bloccate in massa in Ungheria. Tanto che voglio partire oggi dalla trasmissione da una domanda semplice, banale se volete, ma non è il caso di fare qualcosa di concreto, davvero anche militarmente, di intervenire in Siria, di porre fine a questa guerra? Lo so che non è semplice perché intanto raccontano i giornali che lo Stato Islamico, i fanatici dello Stato Islamico sono, qualcuno dice, alle porte di Damasco, a 50 km da Damasco. Intervenire non è facile perché da che parte stiamo? Non so, appoggiamo il leader della Siria, Assad, cioè l'uomo dell'Iran e della Russia, o appoggiamo lo Stato Islamico? Come facciamo a appoggiare lo Stato Islamico, che vuol dire appoggiare l'Arabia Saudita? C'è tutto un conflitto geopolitico importante. Però vi faccio sentire questa domanda banale l'ha fatta perché insomma ha 13 anni, ma a volte dalle domande banali bisogna partire. Anche un ragazzino che è siriano è bloccato in questo momento in Ungheria come tanti suoi connazionali. A 13 anni pone questa domanda molto semplice, ve la dico prima in italiano poi la sentirete in inglese. Cara Europa, ma perché non fermate la guerra in Siria? Se fermate la guerra in Siria, noi siriani non veniamo in Europa. Syrians need help now. You just stop the war and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. Cioè chiede una domanda, fa una domanda semplice. Fermate la guerra. E non è semplice come farlo. E noi non verremo in Europa. Generale Vincenzo Camporini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Generale Camporini è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, è il vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Certo, non è facile fermare la guerra in Siria, ma intanto la domanda se la sta ponendo il mondo? No, io non credo che ci sia nessuno oggi che sia in grado di proporre un qualcosa di concreto per fermare la guerra in Siria. Perché la guerra in Siria, è una mia visione ovviamente questa, è una guerra per procura. È una guerra per procura tra le potenze che si disputano l'egemonia regionale nell'area, che sono l'Arabia Saudita, l'Iran, la Turchia, anche l'Egitto adesso, perché l'Egitto sta ovviamente rialzando la testa, anche questa ultima scoperta di gas che garantirebbe all'Egitto l'indipendenza energetica è un elemento molto importante. Sì. Ora, una guerra per procura la si può fermare se si fermano coloro che la stanno in qualche modo sfruttando, che sono questi paesi. È una situazione che ovviamente le analogie storiche valgono per quel che possono valere, ma accadde in Europa nel 1600, le famose guerre di religione, dove utilizzando sfruttando, strumentalizzando il sentimento religioso, le potenze regionali dell'epoca si disputavano il potere, che erano appunto Vienna, erano Parigi, erano Madrid, Londra, potenze che appunto per 30 anni si combatterono in modo terribile in Europa, casi di cannibalismo erano all'ordine del giorno, per appunto conquistare questa supremazia. Ne nacque l'equilibrio di Vestfalia, l'equilibrio di potenze che peraltro ha generato 300 anni di guerra dopo in Europa. La situazione io trovo analoga a quella della Siria. A quella della Siria. E l'unico modo per fermare la guerra non è andare lì a combattere, ma è convincere queste potenze che non possono trarre i vantaggi che si immagina. Ecco, ma come convincere? Sa, generale, io non so se lei ha visto la foto, ha visto il servizio. Oggi su molti giornali, non solo italiani ma anche internazionali, c'è forse l'illusione, anzi certamente l'illusione, quando si dice una foto può cambiare il corso delle cose, il corso della storia. Addirittura Calabresi oggi sulla stampa appunto scrive, mette questa foto sotto la dicitura: questa è la spiaggia su cui muore l'Europa, invita l'Europa e i governanti d'Europa a dire guardatela in faccia a questo bambino. Può addirittura un'immagine cambiare il corso degli eventi? Questo io non lo credo che possa cambiare il corso degli eventi. Certo aumenta la consapevolezza. Consapevolezza di che? In primo luogo che l'Europa non ha una politica estera e di sicurezza comune, e questo è un problema estremamente serio. L'Europa non ha influenza nei fatti globali perché non esiste come unità, esiste come sommatoria di paesi diversi che hanno diversi interessi e li perseguono nazionalmente. Non abbiamo neanche un esercito europeo. Non abbiamo un esercito europeo perché non abbiamo una politica estera europea. È chiaro. E da questo punto di vista l'Europa in quanto tale ha una voce estremamente flebile, molto flebile al punto che non riesce a influire su quello che si pensa a Pechino, su quello che si pensa a Washington, e tantomeno su quello che si pensa appunto a Riadogo o ad Ankara o a Guaterà. Questo certamente. Allora io ricordo il numero verde per intervenire, 800 24 0024, perché quello che sta succedendo in Siria si intreccia con quello che sta succedendo proprio non più alle nostre porte di casa, ma in casa nostra, visto il flusso di profughi. Voglio salutare il padre gesuita Samir Khalil Samir, spesso nostro ospite, islamologo, professore al Pontificio Istituto Orientale e anche un grande esperto di Siria. Padre Samir, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti voi. Perché il mondo non interviene e soprattutto che cosa sta succedendo in questo momento in Siria, padre Samir? Sta succedendo un massacro già da anni, è il quarto anno, però ha una fonte ideologica. I jihadisti sono quelli che pensano salvare la situazione del mondo islamico tornando al modo di vivere, di reagire, eccetera, del VII secolo. Cioè, questo è lo Stato islamico, questo, quello che noi conosciamo come Stato islamico. Loro dicono, e sono una piccola minoranza, ma molto influente sul pensiero di tanti musulmani. Perché? Perché da decenni il mondo musulmano, al quale appartengo io e mi sento parte di questo mondo, si trova in crisi. Che cosa abbiamo prodotto da secoli al mondo intero? Mentre tutto il mondo va avanti, noi andiamo piuttosto indietro e siamo totalmente dipendenti dalle scoperte, da tutto. Tutta la modernità viene dall'Occidente e un po' dall'Asia, ma da noi niente. Allora, perché si fa l'analisi? E la risposta dei jihadisti, dei fondamentalisti in genere, è di dire perché ci siamo allontanati dal modello iniziale dell'Islam, quello del VII secolo, quando in un decennio, ed è vero, abbiamo conquistato tutto il Medio Oriente e parte dell'Asia e dell'Africa. Perché? Perché noi non siamo fedeli a questo modello iniziale. Dunque la soluzione non è alleanza con l'Occidente, tutto ciò che si fa è falso, la risposta è tornare al passato, all'inizio. Tornare all'inizio. E questo è ideologico. Certo. Per cambiare questo ci vuole allo stesso livello, cioè intellettuale, e un lavaggio di cervello, un cambiamento interno all'Islam, nella formazione degli imam in particolare, perché sono loro che ogni venerdì fanno la predica e sono nel mio paese dell'Egitto forse 100.000 imam che lo fanno. E quello è un aspetto essenziale che noi non abbiamo preso in considerazione. Però, padre Samir, se dobbiamo brutalmente semplificare e dire volessimo intervenire in Siria o comunque considerare un qualcosa da fare, possiamo considerare dall'altra parte Assad un nostro alleato, un nostro amico? Cioè, non è che sia un amico. Assad nessuno lo può difendere, è un dittatore. Ma tutto il Medio Oriente più o meno ha dei dittatori, che siano dei re o dei repubblicani, non importa. Si tratta di vedere, siamo in una situazione di male diffuso. Qual è il male minore? Non c'è dubbio che i jihadisti di Daesh sono attualmente i peggiori possibili, immaginabili. E lei ce l'ha detto stamattina parlando della foto, ma ci sono purtroppo migliaia di foto di questo tipo che non vedremo mai che non vedremo mai, ma la realtà è quella, che uccidono così anche bambini, questo è troppo chiaro per dover svilupparlo. La questione è che nel caso attuale Daesh è sostenuto da tutto il movimento fondamentalista, che sono dai fratelli musulmani ai wahhabiti dell'Arabia Saudita, del Qatar, e tante persone attraverso il mondo hanno fatto una tale propaganda anche in Indonesia, che era il paese, il più grande paese islamico del mondo, ma anche il paese che fino a 30 anni fa era dato come modello di tolleranza, di apertura, di convivenza. Questa ideologia sta guadagnando. Il peggio oggi è Daesh, ma ci sono altri. Allora Assad, l'Iran, la Russia, tutti quelli che noi vediamo come nemici sono un male minore. Un male minore rispetto al Daesh o in Stato Islamico, come lo chiamiamo. Dobbiamo dunque collaborare insieme. Non si può accantonare Assad. Non è che lo canonizziamo. Chiaro. Domani dovremo discutere con lui, ma da oggi dobbiamo vedere. E dire che, fino a due anni fa, tre anni fa, era considerato proprio, come dire, un leader da abbattere in 448, esatto. Perché e invece. Ma questo ha durato poche settimane e poi sono messi d'accordo, probabilmente per motivi utilitari e pratici, di dire no, non lo uccidiamo. La questione è di sapere come concretamente loro Daesh, se non sbaglio, saranno 50.000 con molti simpatizzanti nel mondo, ma come militari. E noi non arriviamo a la Siria non riuscirà, perché loro sono in mezzo alla popolazione e si fanno scudo di questo. È interessante e vorrò ripartire da qui, visto che abbiamo un padre gesuita egiziano, esperto di Islam, e un generale. 50.000 è la stima, ci dice padre Samir, dei militari proprio, non quelli che li appoggiano, ma i miliziani dello Stato Islamico. Possibile che militarmente non si possano sconfiggere? Ho letto ieri, si parla di azioni americane, secondo il Washington Post, di droni per cercare di bombardare, anche se non è facile. Cercheremo di partire da qui e poi capire i riflessi anche di quello che sta succedendo in Europa. Ci collegheremo con la nostra Valentina Furlanetto da Budapest dopo la pubblicità, tra tre minuti. State con noi. Allora, alle 8.36 minuti siamo con il generale Vincenzo Camporini e con padre Samir Khalil Samir per cercare di capire quella che è il dramma dell'immigrazione e anche con tutto quello che sono i riflessi per noi, per la società occidentale, che vede anche flussi di profughi, in alcuni casi invece sono, sappiamo, i migranti per motivi economici, soprattutto quelli che arrivano dalla Libia, dall'Africa, sulle coste italiane. Generale Camporini, se l'Europa non è in grado di intervenire dal punto di vista militare, è almeno e vede un'Europa in grado di scuotersi, se non altro, nella gestione dei grandi flussi di migranti. Adesso vede, c'è una situazione a Budapest, dove tra poco andremo, abbastanza clamorosa, dove non si capisce perché le persone vengano tenute ferme lì alla stazione. Ma quello che sta accadendo indubbiamente non fa che stimolare una consapevolezza da parte di tutti i popoli, non solo i governanti, ma i popoli europei, che sta succedendo qualcosa che ha bisogno di un'azione diversa e un'azione più propositiva. Fino a poche settimane fa, ricordiamocelo, il problema era un problema dell'Italia che piagnucolava per il fatto che l'Europa non faceva abbastanza per darle una mano nella gestione di questo fenomeno. Oggi come oggi l'Europa si sta accorgendo, e ripeto, si tratta di una consapevolezza che coinvolge non soltanto i governanti ma anche le popolazioni, anche gli elettori, perché i nostri governanti rispondono agli elettori, purtroppo hanno questa prospettiva delle prossime elezioni che ci sono fra una settimana, un mese, un anno, e non hanno mai una visione, non hanno mai elaborato un progetto di lungo periodo che possa in qualche modo gestire i fenomeni di questo mondo globalizzato. Ma infatti quando si sente parlare di emergenza è la parola più incredibile, ma emergenza da cosa? Sono vent'anni che con flussi più o meno con ovviamente curve più o meno alte abbiamo a che fare con queste, con le gestioni di migranti per vari motivi, eppure si parla di emergenza. Però leggo oggi sui giornali giornali che l'Europa penserebbe a questo. La Commissione, Juncker, penserebbe a una sorta di sanzione economica per i paesi che non collaborano. Cioè, tu non vuoi ricevere dei profughi, vieni, devi compensare pagando cifre anche sostanziose alle casse europee di Bruxelles. Si colpiscono economicamente gli stati, generale? Il discorso delle sanzioni economiche è un discorso chiaramente molto, molto interessante, perché i paesi sono molto sensibili a questo. Non c'è dubbio che il problema di pagare poi queste sanzioni, che non sarebbero di modesta entità su economie che sono così ancora stressate in Europa, è un problema che potrebbe stimolare comportamenti più virtuosi. Potrebbe, ma non è. Però io vorrei sottolineare una cosa. C'è stato un buon discorso, credo, comunque negli ultimi giorni, un bellissimo articolo di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, dove si evidenziava come queste migrazioni rispondono non soltanto alla pressione che arriva da guerre, persecuzioni, ma risponde anche alle esigenze di questa Europa totalmente denatalizzata. Noi siamo un continente che ha perso lo slancio verso il futuro e ha bisogno di forze nuove che arrivino per rinvigorire l'economia, per rinvigorire la società. E non si può fare soltanto una gestione di questi flussi dal punto di vista passivo, ma deve essere un progetto che in qualche modo vede una futura Europa dove ci sarà una consistente presenza di non europei che lavorano, pagano le tasse, pagano i contributi e pagano le nostre pensioni. Vorrei sentire Paolo da Brescia prima di tornare da padre Samir. Paolo da Brescia ci chiama all'800 24 00 24. Paolo, buongiorno. Non ci sente? Mauro, allora, da Como. Buongiorno. Sì, Mauro, dica. Io volevo fare una domanda al generale. Sì. Una guerra si conduce con uomini, ma soprattutto con rifornimenti, mezzi, armi, munizioni. È possibile che non si possano individuare i canali di rifornimento di queste persone? Sì, ma rifornire chi? Ah, cioè lei dice per stroncare... Per stroncare l'ISIS. È una domanda intelligente che si lega a quello che padre Samir prima diceva dei 50.000 miliziani. Generale Camporini, sono davvero invincibili questi dello Stato Islamico? Oppure... Ma sono molto ben supportati appunto da quei paesi che, come dicevo prima, per canali certamente non ufficiali, combattono questa guerra per procura. Ci sono dei sono Arabia e Qatar, possiamo dirlo così? Arabia, Qatar, Iran, anche la stessa Turchia. Qui stiamo parlando di flussi innanzitutto finanziari di grosso rilievo. L'ISIS non si finanzia vendendo qualche barile di petrolio dei campi che ha conquistato. L'ISIS riceve flussi di denaro estremamente importanti che le consentono poi sui mercati paralleli, illegittimi ovviamente, di rifornirsi di tutto quello che vuole. E da questo punto di vista c'è anche un'altra cosa da osservare. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un Iraq dove nel 2003 si è combattuta una guerra di conquista, diciamolo pure. Un Iraq che aveva accumulato grandissime risorse militari, rifornimenti in depositi che poi gli americani non sono stati capaci di gestire, per cui anche in loco c'è una grossa disponibilità di mezzi per combattere. In più i rifornimenti che gli americani hanno fornito al neoformato esercito iracheno, che si è spogliato come neve al sole, e buona parte dei quali sono andati a rinforzare Io ieri leggevo un straordinario commento di Alfonso Berardinelli sul Foglio in cui si parlava dell'importanza del messaggio cristiano. Padre Samir mi può correggere, ma insomma i valori della cristianità sono l'accoglienza, la fraternità, il farsi avanti per accogliere il prossimo, eccetera. Ma Berardinelli spiegava: in questa Italia sfiduciata, dove la gente è arrabbiata, dove la gente non crede più tanto nel futuro, è molto delusa, ecco che anche i valori basilari della cristianità non fanno più presa tra le persone comuni, no? Padre Samir, lei questa lettura la vede troppo pessimistica oppure no? Allora, vorrei dire a due livelli. Da una parte lo scandalo è che proprio i paesi che pretendono difendere l'Islam e di essere contro Daesh sono quelli che lo alimentano finanziariamente, i paesi nominati, Arabia Saudita e Qatar in particolare, ma anche la Turchia che gioca un doppio gioco a causa dei curdi, che ha paura che i curdi della Siria, dell'Iraq e della Turchia cerchino di fare uno Stato. C'è troppe cose non dette e devono essere dette. Tutto questo senza i fondi, senza i soldi, non potrebbe essersi. La lotta è dunque anche in primo luogo di fermare la fonte delle armi. E chi fornisce le armi? Le armi certamente non si producono nel Medio Oriente, arrivano in gran parte dall'Occidente, forse anche da altri paesi. E lì è già una questione di fondo e di etica internazionale. Se continuiamo così, la guerra si farà dappertutto e si fa dappertutto. Io stavo in Germania questi due mesi, in parrocchia come parroco nella Baviera, e proprio a 100 metri da dove abitavo c'era un campo di profughi, sì, e andavo da visitarli, in maggioranza siriani, ma anche dalla Somalia, dall'Iran, dall'Afghanistan, e essendo arabo parlavo con loro con gli afghani e persiani, parlavamo un po' tedesco, un po' inglese, eccetera. Loro sono stati accolti in Germania. In Germania non si parla altro da 10 giorni che degli immigrati siriani, a causa di ciò che lei ha detto, sì, anche dello scandalo che c'è in Ungheria, ma dappertutto. Il tratto che va, come fuggono dalla Siria? Uno dei cammini attraverso la Grecia, poi la Macedonia, la Romania, eccetera. E questa zona per arrivare in Germania. Lo scopo è la Germania, per altri l'Inghilterra. E lì in Germania ci sono anche i neonazi che hanno bruciato dei centri d'accoglienza, sì, che fortunatamente non c'erano gente dentro, ma era previsto per loro, e fanno manifestazioni. Ma lo Stato e la Merkel è intervenuta più volte calmamente, cioè con un discorso razionale, per dire: noi non possiamo abbandonarli, dobbiamo fare e faremo anche accordi europei. Ma di fronte a quello che invece scriveva Berardinelli dei valori della cristianità che fanno poca presa in questo momento, lei che dice? È quello che parlando con quelli profughi più volte mentre stavo con loro, mi dicevano: veramente non sappiamo come ringraziare la Germania per ciò che fanno. Ero in un piccolo paese di 1500 abitanti, bellissimo, con le montagne, eccetera. E loro gratuitamente da anni stanno mantenendo queste comunità. Le visitano, ci sono delle persone, erano quattro signore, che davano quotidianamente delle lezioni di tedesco. I bambini loro sono tutti a scuola. In Italia sa che invece il sentimento comune, non so, l'avrà percepito anche lei dai giornali, non di tutti, per carità, non di tutti, ma il sentimento molto dell'uomo della strada è: ma io non li voglio, ma perché? Cioè, già sto male io, ho i miei problemi, non c'è lavoro, eccetera, e che devo fare? In Germania la visione che viene, cioè tutti i giorni, ma forse 5 volte al giorno, tutte le televisioni ne parlano, e il governo ha preso delle posizioni dicendo: noi non possiamo non aiutare. Però nello stesso tempo dicevano questo è un problema in tutta l'Europa. E questo sì. Dobbiamo, dunque tutti devono contribuire, chi non lo può fare accogliendo, perché in realtà loro non vogliono andare ovunque, cercano la Germania perché è un paese sviluppato e organizzato, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, sì, grosso modo sono questi quattro paesi. E sappiamo che l'Inghilterra è uno dei paesi adesso più chiusi, ma se c'è una situazione plastica dove l'Europa sta mostrando veramente le proprie difficoltà di gestione, questa è l'Ungheria. Andremo lì dalla nostra inviata Valentina Furlanetto dopo il traffico. Valentina Furlanetto è a Budapest in Ungheria. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, qual è la situazione? Perché tu hai raccolto testimonianze, ne ho sentita una che poi sentiremo credo nel giornale radio di Ahmed Siriano, che ti raccontava quanto dura un viaggio mediamente per un siriano per arrivare fino a lì. Sì, allora, io ho sentito questa testimonianza ieri, la Keleti Pályaudvar, la stazione internazionale di Budapest, la famosa stazione, famigerata stazione, dove anche in questo momento si trovano centinaia di profughi, siriani e afghani per lo più, hanno dormito lì anche questa notte. La testimonianza di cui parlavi è quella di Ahmed, un ragazzo di 27 anni di Aleppo, uno studente, classe media, perché per lo più le persone che si trovano in questa situazione adesso sono persone che hanno potuto pagare un viaggio. Ha fatto questo ragazzo un mese e 10 giorni di viaggio, mi ha raccontato, a piedi, in autobus, via mare, dalla Turchia alla Grecia. Ha detto quella è stata l'esperienza più terribile. Faceva fatica addirittura a parlare, mi diceva sono molto stanco, non riesco neanche a parlare, non sto in piedi. Come lui, ovviamente, tutte queste persone senza servizi igienici o con servizi igienici fatiscenti. Ci puoi spiegare perché si è arrivati a questo stallo? L'Austria e l'Ungheria accusano la Germania dice non siamo corresponsabili di questa situazione, cioè perché si è generato questo imbuto di colpo per cui queste persone non possono andare né avanti né indietro adesso? Guarda, questa situazione è paradossale in effetti. Ieri ho sentito anche il portavoce di Jobbik, il partito neonazi ungherese, che ha il 23% in Ungheria, e il presidente invece del partito politico LMP, che è invece il partito dei Verdi, diciamo dell'opposizione. Entrambi paradossalmente, perché agli opposti, dicevano più o meno la stessa cosa. Orban, il premier ungherese, sta facendo una prova di forza per dimostrare che lui prende le impronte digitali, trattiene i migranti, praticamente pedissequamente mette in atto il regolamento di Dublino, e questo per dimostrare a Bruxelles, insomma, di avere il pugno fermo. Orban è quello che ha fatto il muro con la Serbia. Orban è il premier, insomma, che ha fatto il muro, che stanno chiudendo proprio in queste ore, 175 metri di recinzione. Anche questa è paradossale, è una recinzione, Alessandro, di 3 metri, ma facilmente aggirabile, si può essere sollevata. Tantissimi infatti sono arrivati qui a piedi passando la recinzione. Addirittura ieri mi mostravano questi del partito Jobbik delle foto in cui si vedevano i soldati alla frontiera che tenevano le mani conserte mentre passavano i profughi. Insomma, quindi una prova di forza poco a spese sì, poi di persone. Da una parte dimostra ai suoi concittadini e delle che non permette di farli entrare con il muro, dall'altra dice la Germania non li facciamo uscire. Ma quello che mi chiedevano i migranti ieri, questi profughi che si trovano in situazione, è proprio perché se Orban non ci voleva e ha costruito il muro e poi non ci fa uscire e non ci fa andare in Germania? Avevano tutti il biglietto, ce l'hanno mostrato, l'abbiamo messo anche sul sito internet, lo potete vedere, avevano tutti il biglietto pagato per la Germania. Io vorrei sentire Paolo da Brescia, intanto che abbiamo recuperato. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Io volevo fare semplicemente due considerazioni. Sì. La prima riguarda la fotografia che alcuni giornali stamattina hanno messo del bambino. Ecco. Secondo me è una fotografia buona, nel senso che deve interrogare le coscienze, ma soprattutto deve interrogare la carne degli europei. Noi siamo bravissimi nel distinguere la coscienza dalla carne. Avere un coltello piantato nella coscienza è utile anche se si ha un coltello impiantato nella carne. La seconda è riferita all'informazione, nel senso che ha lasciato un po' perdere questa guerra. Io mi ricordo il periodo del Kosovo, c'è stato un martellamento pazzesco sulla, su quella del, no, ma sì, sono, sì, sono due considerazioni interessanti. Siccome ho un minuto, generale Camporini, se vuole concludere lei, l'interrogarsi sulla foto, io ho il timore, come dice lei, che al di là del, mi scrivono persone dicendo che hanno visto la foto, hanno le lacrime agli occhi, però tra due giorni il mondo è fatto così, si andrà avanti. Riguardo però al fare informazione sulla guerra in Siria, generale, c'è una colpevolezza da parte dei mezzi di informazione? Purtroppo l'attenzione dei mass media è molto ondivaga, si sposta in base a, io dico anche a emozioni. Della Siria si parlò a lungo qualche anno fa, quando cominciarono le azioni di guerra vera e propria che si stanno conducendo, dopodiché per un certo periodo della Siria non ha parlato più nessuno mentre si continuava a morire. Quindi da questo punto di vista il mondo è diventato così complicato e l'informazione sta diventando così rapida che non si riesce a focalizzare un problema per trovare una soluzione che in qualche modo sia strutturale, non sia un... È vero, sì, l'informazione mordi e fuggi. Io per il momento mi fermo, ma andiamo in onda fino alle 9.30. Ringrazio molto il generale Vincenzo Camporini, padre Samir Khalil Samir, e la nostra Valentina Furlanetto da Budapest, che ritroveremo ovviamente nei giornali radio. Riprendiamo dopo le 9, sarà con noi il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccer, per capire se ripristiniamo i controlli di dogana tra Italia ed Austria. Buongiorno da Maurizio Mellis. All'inizio dell'estate l'Università di Padova e il Centro di Geodesia Spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana, che è dotato di uno dei laser per le misure geodetiche più precisi al mondo, sono riusciti, unendo le forze, a realizzare la prima trasmissione quantistica satellitare. Poiché non esistono apparati satellitari dotati di ricevitori quantistici, l'equipe è ricorsa a uno stratagemma, sparando un raggio laser su dei satelliti dotati di speciali riflettori simili a dei catarifrangenti e misurando poi il riflesso da terra. La crittografia quantistica è considerata strategica dagli esperti di sicurezza informatica, dato che rappresenta l'unica possibilità per poter contare in futuro su trasmissioni di dati completamente sicure. Un bit quantistico infatti non può essere copiato impunemente, qualunque interazione nel mondo dei quanti lascia una traccia visibile, una prova se parliamo di una trasmissione che i dati sono stati origliati o manomessi. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20.50. Buona giornata. Audi ti aspetta su audiinnovativethinking.it, la piattaforma delle idee e delle persone che aprono la strada al cambiamento. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. Parliamo di riforma della scuola. Ci sono vari punti di vista, alcuni criticabili, altri più elogiabili. Quello che però sembra veramente fuori luogo e fuori da ogni realtà sono le proteste, avallate anche da molti sindacati, di quei precari che, se vorranno accettare l'assunzione e quindi il posto fisso, dovranno spostarsi nella maggior parte dei casi da sud verso nord. Si tratta di 7.000 persone su 9.000 e, come ha fatto notare il ministro Giannini, il numero è molto vicino agli spostamenti già registratisi l'anno scorso, ma in quel caso si trattava di supplenti precari, in questo caso si tratterebbe di andare a ricoprire un posto fisso. Perché fuori luogo e fuori da ogni realtà? Beh, perché si è arrivati anche a parlare di deportazioni, con quello che sta avvenendo alle porte dell'Europa in questo momento è quanto mai di cattivo gusto, anche perché, ricordiamolo, non c'è nessun obbligo. Se un precario ritiene, e ne ha tutti i diritti, che non sia vantaggioso accettare l'offerta del Ministero e trasferirsi in un istituto al nord, esce dalle graduatorie e può cercarsi un altro posto di lavoro, magari in una scuola privata. Basta non rispondere però che il lavoro manca, perché il lavoro manca anche per quelle decine di migliaia di italiani che in questi anni silenziosamente si sono spostati dal sud verso il nord o anche fuori da questo paese per cercarlo il lavoro. Ma chissà perché in quel caso non si è parlato di deportazioni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Allora, sono le 9:09, ben ritrovati da Alessandro Milan, staremo in diretta fino alle 9:30, come sapete tutto il mese di settembre, parliamo di immigrazione e ieri attorno a mezzogiorno è uscita questa notizia sulle agenzie, a dire, poi parzialmente smentita, a dire è stato sospeso il trattato di Schengen almeno tra Italia e Austria, ci sono più controlli al Brennero perché questa è la richiesta da parte della Germania. Allora, vorrei chiarire tutto con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccer. Buongiorno presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, ci aiuti a capire, è sospeso Schengen, com'è la situazione, da dove nasce questo, anche questo malinteso che è uscito sui giornali? No, assolutamente no, la notizia è completamente sbagliata, Schengen è tuttora in vigore, si tratta di una intensificazione dei controlli che comunque andavano avanti già adesso per mesi, li intensificheremo adesso anche per dare una mano alla Baviera. Ma intensificazione dei controlli che è chiesta dalla Germania dunque? Chiesta dalla Baviera, perché loro devono affrontare adesso un'ondata record proprio di affluenza sulla rotta orientale, no? Quella dei Balcani, e perciò hanno chiesto a noi, dove la situazione è molto più tranquilla sulla linea del Brennero, di fermare e trattenere un attimino quelli che si dirigono verso la Germania. Però cosa vuol dire? Cioè, fermare e trattenere un attimino, capisce che cioè sulle basi di che cosa si può fare? Su una base Schengen non è sospeso, però queste persone, intanto che ci faccia capire quante persone e che tipo di persone sono trattenute a Bolzano. Beh, la situazione la conosciamo ormai da mesi, perché comunque i controlli vanno avanti da mesi, poi le forze dell'ordine identificano i profughi diretti verso la Germania, vengono fatti scendere dai treni e poi si fermano alle stazioni dei treni, diciamo, di Bolzano, Bressano e anche alla frontiera del Brennero. Noi li assistiamo e poi fino adesso poi c'è sempre stato uno secondo, terzo tentativo e alla fine ci siamo anche riusciti a sconfinare. Adesso noi cercheremo ancora di più di convincere queste persone di fermarsi un attimino, vista la situazione in Baviera, dove non sono ancora attrezzati e organizzati per accogliere tutte queste persone. Cioè, che però paradossalmente non proveniva la domanda dall'Austria, ma dalla Baviera, voglio dire, eppure Bolzano confina con l'Austria. È così, però comunque siamo in stretto contatto sia col Tirolo, diciamo, col Bundesland che confina con noi, ma anche con la Baviera, perché comunque è sempre questo corridoio che ci collega e i profughi sono diretti principalmente verso la Germania. Ci faccia capire, a quei giornali che oggi titolano, e alcuni lo fanno, la Germania ordina e l'Italia si piega e comunque esegue, cosa risponde? Assolutamente no. La ministra competente della Baviera aveva illustrato alla mia collega in giunta provinciale, che è competente per questa tematica, la situazione in Baviera, chiedendo se ci poteva essere un qualche sostegno da parte nostra, e poi siamo stati noi a contattare il governo a chiedere se potevamo magari intensificare i controlli e noi comunque eravamo disposti a mettere a disposizione i nostri servizi l'assistenza che è necessaria poi per i profughi che si fermano sul nostro territorio. Questo è uno spirito di collaborazione anche soprattutto, diciamo, europeo e uno spirito di buon rapporto di vicinanza. Quante sono le persone che sono trattenute in questo momento? Noi immaginiamo che potranno essere nei prossimi giorni 200-300-400 persone anche. Abbiamo già l'esperienza del G7, allora sì che fu sospeso l'accordo di Schengen, però la situazione poi per noi era identica, no? Voleva dire che i profughi in transito si dovevano fermare sul nostro territorio. Però anche allora abbiamo potuto notare che già la notizia aveva prodotto qualche effetto. Io credo che sia così anche stavolta, perché per adesso la situazione è molto è tranquilla. 200-400 persone e si capisce quando finirà, cioè presumibilmente questa situazione di parziale blocco, chiamiamolo così. Ma innanzitutto si spera che si tranquillizzi la situazione in Baviera, anche perché gli arrivi, diciamo, sulla rotta dei Balcani potranno diminuire, perché sappiamo che il gruppo proprio che fu bloccato in Macedonia e poi sulle frontiere ungherese, che prima o poi dovranno anche diciamo, dovrà anche diminuire questo afflusso e perciò la Baviera avrà poi modi per attrezzarsi, per organizzarsi, per accogliere anche i pochi che arrivano sulla linea del Brennero. Parliamo di qualche giorno. E per concludere, Presidente Compaccia, lei è uno dei pochi amministratori, mi sembra di capire, non dico felice, ma a dire, beh, c'è una situazione di emergenza, gestirò 200, 300, 400 profughi. Sa che in Italia sono più gli amministratori che quando si vedono questa grana non è che se la vivano molto bene, se la vivono piuttosto male. È innanzitutto una questione umanitaria, io credo che ciascuno debba assumersi la propria responsabilità, questo vale per tutte le regioni, noi come provincia autonoma abbiamo l'idea di una gestione anche responsabile di questa autonomia, però vale ancora di più per tutti gli stati dell'Unione Europea, sarebbe ora che tutti si assumessero questa responsabilità anche in modo solidale. In modo europeo. Intanto la ringrazio, grazie Presidente Compaccia di essere stato con noi. Presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccia, che ci ha spiegato intanto che non è vero che il trattato di Schengen è sospeso, è ancora in vigore il trattato di Schengen, cioè quello che permette la libera circolazione dei cittadini europei. Semplicemente la Baviera ha chiesto di trattenere, visto che lì c'è molta pressione per la presenza di profughi, di trattenere per qualche giorno, vedremo quanti, 200-300, forse 400 profughi o comunque migranti che stanno transitando per Bolzano. Intanto voglio salutare Claudio da Vicenza. Claudio ci ha chiamato all'800-24-00-24, credo sul tema precedente da cui abbiamo affrontato, da cui siamo partiti, cioè la Siria, la grande crisi internazionale. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Sì. Niente, io ho una domanda molto semplice. Mi sembra che ci sia un grande assente in tutta questa questione qua, che è l'ONU. Sì. Che manca completamente. Sa, però l'ONU, sì, oltre a essere assente, ma come assente anche l'Europa, però nell'ONU, come sa, c'è un Consiglio di sicurezza dove siedono per esempio Cina e Russia e Stati Uniti. Sa, in Siria si dice molto, per semplificare, che Assad è l'uomo dell'Iran e della Russia. Come mettere d'accordo all'ONU? Lei se la immagina l'ONU? Si mettono lì, si siedono al Consiglio di sicurezza, all'assemblea plenaria e mettersi d'accordo tutti? L'Arabia Saudita che sostiene lo Stato Islamico, dall'altra parte la Russia e l'Iran che sostengono Assad, come si fa? Penso che sia difficile, ma considerando che la crisi umanitaria qualcosa dovrebbe fare. Va bene, intanto Claudio, la ringrazio. Ricordiamo che c'è un organismo che è l'organismo proprio dell'ONU che assiste l'Alto Commissariato per i Rifugiati, che in realtà è molto attivo, non tanto l'ONU certo come Caschi Blu, ma come agenzia UNHCR. Saluto Vittorio da Monza, buongiorno Vittorio. Ciao Milan, sono contento di chiamarvi. Eccoci io qui. Guarda, stavo sentendo prima la televisione e la radio e mi veniva nervoso, perché a sentire, cioè, l'ISIS sono un nuovo nazismo. Sì. E questi poveri siriani che si trasportano sono come gli ebrei di una volta. E quindi qua non è che si può andare a fare il lavaggio di cervello, andare all'ONU. Quando c'era il nazismo l'unica maniera che li ha fermati è stato fagli la guerra, e così quei giapponesi gli hanno buttato le bombe atomiche, dopodiché l'idea che l'imperatore fosse un dio, quella lì l'hanno cambiata. Sì. Cioè non è che ci si può aspettare mettersi nella posizione dell'Arabia Saudita, lì devono andare a mettere la nostra posizione. Vabbè, ma che facciamo? Cioè, l'Arabia Saudita, Vittorio, stiamo facendo geopolitica spiccia. L'Arabia Saudita è nostro alleato, nostro nel senso dell'Occidente, però dall'altra parte, a detta di tutti, finanzia segretamente lo Stato Islamico. Ma che facciamo? Lo sai meglio di me che tra 50 anni ci troveremo a guardare al passato di questo e dirci come è stato possibile che abbiamo permesso che questo succedesse. Come adesso guardiamo al passato, diciamo, come è stato possibile che abbiamo permesso i campi di sterminio. E questo qua è quella domanda che si fanno tutti, dovrebbero farsi tutti i politici. Insomma, questo è il punto. L'incapacità di agire, l'incapacità, l'inerzia, ecco, tu cogli. Vittorio, io grazie Vittorio da Monza per questo intervento. Vorrei sentire anche sempre le chiamate all'800-24-00-24. Massimo da Roma. Buongiorno. Dica Massimo. Mi senti? Benissimo, benissimo Massimo. Benissimo. Dunque, no, io facevo un discorso di questo tipo qua. Mi ricordo questo flusso migratorio verso l'Europa, mi ricorda molto la caduta dell'impero romano, quando migliaia di barbari fuggivano da zone devastate per stare in un'area in cui c'era più tranquillità, c'era un ordinamento, c'era un... Ma i paragoni con epoche storiche così diverse sono un po' difficili, però i flussi sono migratori ci sono. Il flusso migratorio così pressante, non dimentichiamoci che i confini sul Danubio, l'impero romano aveva messo in posizione soldati e guarnigioni per bloccare l'intervento. Il vallo di Adriano fatto nel nord serviva per bloccare l'ingresso di popolazioni non accettate, perché l'impero romano voleva rimanere là dentro. Sì. E questo è la prima cosa. Cioè, di fronte a questa pressione così violenta, qualunque cosa si faccia, queste persone entreranno, perché sono delle masse continue che si spingono uno dietro l'altro. Per cui il discorso non può essere fatto qua in Europa, il discorso deve essere fatto nei luoghi d'origine, insegnandogli lì a pescare, non dandogli dei pesci da mangiare ogni volta. Sì. L'altro discorso era poi relativo, e così concludo, così lei può proseguire la sua piacevole e meravigliosa trasmissione, che le devo dire che seguo sempre con tantissimo interesse. Il discorso è relativo a quello che è successo della cosiddetta primavera araba, nel quale potenze occidentali più o meno apertamente hanno fomentato tutta una serie di problematiche, pensando poi di poter gestire sul quello che rimaneva dei discorsi, chiamiamolo di natura economica, sì. Soltanto che gli hanno preso la mano. Diciamo, i talebani, in effetti, questo estremismo islamico nasce quando una potenza occidentale, diciamo, finanzia questo esercito per dare fastidio in Afghanistan alla Russia. Vabbè, diciamo, però... E poi gli è scappata di mano, perché volta che accende il fuoco... Lì però è una situazione diversa. Però insomma le sue trattazioni storiche mi interessano, caro Massimo. Vede che ha dato tutto questo spazio, e la ringrazio per questo suo intervento che ci ha portato dalla caduta dell'impero romano fino alla nascita dei talebani in Afghanistan. Vorrei sentire Salvatore da Milano. Buongiorno Salvatore. Sì, buongiorno, grazie di avermi richiamato. A lei. Grazie a lei. Dunque, volevo fare un appunto. Posto che i paesi europei, diciamo, non vogliono che questo afflusso di gente, di migranti, venga fermato, perché è evidente. In Italia si dice che non si può bloccare perché in Libia c'è questa situazione di disordine, che tutti conosciamo. Però quelli che partono dalla Turchia non si fermano, perché lì abbiamo un paese con cui, diciamo, ci si può interloquire, si può parlare per trovare degli accordi, e non si ferma. Posto questo, io vorrei diciamo evidenziare l'ipocrisia che c'è in Europa da parte dei nostri politici, soprattutto dalla Merkel, che dice di volerli farli venire. Li vuole far venire, ma a questo punto, scusi, io le chiedo magari di poter fare questa proposta ai suoi, diciamo, ospiti. Che proposta? La proposta è questa: farli partire normalmente con gli aerei. Quello però non è facile. Ma chi è che va in Siria a controllare se uno sta fuggendo dalla guerra? Va lei in Siria? Cioè, chi è che ci va? Non è facile, Salvatore. Però no, la ringrazio per la proposta. Intanto io però vorrei concludere salutando un ultimo ospite, perché si è parlato tanto di immigrazione, di immigrati, eccetera. Però una vicenda di cronaca, purtroppo una vicenda tragica di cronaca che è finita sui giornali, ha portato alla ribalta della cronaca un immigrato. Di questo non si è parlato molto, di questo cittadino ucraino Anatoly Korol, che a Castello di Cisterna ha sventato, nel tentativo di sventare una rapina in un supermercato in provincia di Napoli, è stato ucciso. Io voglio salutare Michele Piccolo, che è il titolare dei supermercati Piccolo, tra cui quello appunto di Castello di Cisterna, dove è morto questo cittadino ucraino. Michele Piccolo, buongiorno. Buongiorno. Di questa vicenda, ripeto, si è parlato, certo se n'è parlato, perché sa... Se n'è parlato, ma forse... È stato l'argomento di questi giorni. Lì, ma dico a livello nazionale non so a livello nazionale cosa si è detto, però è stato l'argomento di questi giorni, perché diciamo in questi periodi, cioè nella nostra zona, e non solo, gente che ha questo coraggio e ha questa correttezza e che rischia la vita come l'ha rischiata per una nobile persa. Causa, una giustizia, una difesa di moralità, di bontà e di correttezza, sicuramente non se ne trovano tutti. Cioè, ricordiamo, chiaro, Anatoly Korol era col figlio a fare la spesa, in uno dei suoi supermercati. La dico brevissima, sì. Anatoly è venuto nel supermercato, perché avevo dal video, perché quando sono arrivata la tragedia si era già consumata. Sì. Allora si nota che ha fatto la spesa ed è uscito fuori. Nel frattempo entravano i rapinatori, che diciamo erano in divisa, cioè, poi divisi di rapinatori, perché vestiti di nero, tutto coperto con i guanti e con il casco e con il sottocasco, era chiaro che era una rapina. Mm-hmm. Anatoly è entrato appresso allora, appresso i rapinatori, per fermarli, con l'intenzione di evitare la rapina, e diciamo che c'è pure riuscito, perché ha bloccato uno. Nel frattempo questo ha lasciato la pistola ed la pistola è stata recuperata dal collega, sì. E gli ha sparato alla gamba e alla milza, e non per questo è morto, perché questi due colpi si poteva ancora recuperare, cioè salvare la vita. Però è morto con una fatalità che manco si potrebbe credere, sì. È morto con una penna, perché dietro la nuca è stato colpito più volte da una penna, e dove ha toccato qualche organo vitale che potrebbe essere la vena aorta, certo, il cervelletto, certo. Cose così, e c'è rimasta la vita. Io so però che la comunità in qualche modo ha reagito. Ecco, anche lei le ha sentite a livello locale molte delle persone che dicevano non avrebbe dovuto intervenire? Non sarebbe dovuto intervenire? Sì, l'ho sentito questo, non l'ho mai detto io, non ammetto che si dicano queste cose, perché uno che fa un atto di bontà, un atto di correttezza, deve essere solo premiato e parlato bene. Poi ognuno dice la sua, che manca il coraggio per intervenire, avrebbe mancato pure a me il coraggio, però a chi ce l'ha il coraggio glielo dobbiamo accreditare, lo dobbiamo premiare, lo dobbiamo fare i complimenti. Che succede, succede alla famiglia? È vero che c'è una raccolta di fondi, perché lascia la moglie, sì, e lascia un figlio? I primi soccorsi li abbiamo fatti noi e abbiamo dato la piena disponibilità. Non voglio stare a raccontare quante cose noi abbiamo detto e fatto e faremo, però c'è da dire che oltre alla mia disponibilità si sono accodate pure tanti altri. Siccome questa cosa è a carattere nazionale e parecchi nostri fornitori, perché noi poi i nostri fornitori sono nazionali, è saputa questa cosa e sono intervenuti un po' con i vicini di casa, un po' con gli amici nostri e suoi, perché era stimato e visto come giudicato persona per bene, qualche nostro collega, qualche nostro fornitore hanno detto che se noi facessimo qualcosa per, vogliono partecipare pure loro. E c'è un modo anche per tutti, cioè chiunque stia all'ascolto in questo momento può decidere di partecipare, cioè c'è un qualcuno che sta raccogliendo per tutti, oppure come fare se uno volesse aiutare la famiglia di questo? No, io mi prendo l'IBAN, il loro IBAN, e lo fornisco a chi ne ritiene. Sapere che comunque così almeno lo diffonderemo anche qui a Radio 24. Intanto la ringrazio, Michele Piccolo. Ho voluto concludere, grazie titolare, ricordo, supermercati Piccolo, dove c'è stata questa rapina in cui ha perso la vita questo Anatoly Korol, anche in circostanze abbastanza clamorose, anche proprio nella dinamica come ci ha raccontato Piccolo, e rapina che ha sventato Anatoly Korol davanti al figlio di 2 anni, è morto. No, questo per dire, per carità, la retorica è sempre sbagliata, non vogliamo fare la retorica e non vogliamo fare il buonismo, io odio il buonismo, però, voglio dire, si parla sempre di storie negative che riguardano persone che arrivano dall'estero come se fossero persone diverse da noi, e invece, avete capito, è l'unico che è intervenuto e ha perso la vita per questo. Allora ci fermiamo qui, grazie a Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, al nostro Peter Bescapè in regia. Come sapete 24 Mattino torna domani alle 6.30, ci potete raggiungere come volete, su Twitter ci siamo, anch'io sono su Twitter, Alino Milan nel mio profilo, se mi volete seguire mi farà molto piacere, parlerò molto della Juve ultima in classifica per esempio. Scherzo, dai amici juventini, vi voglio bene. Siamo su Facebook e siamo sul sito di radio24.it con contenuti extra nella nostra pagina di 24 Mattino. Domani dalle 6.30 noi ci siamo, e voi debosciati.